Una volta mi ha punto una vespa. Ve lo racconto? Beh, è una cosa che non sapete e da qualche parte dovrò pur cominciare. È successo tanti anni fa. Io ero piccola, avrò avuto 5-6 anni ed ero al parco con la mamma. Ricordo che faceva caldo, un sole accecante e la mamma aveva del sudore sul collo e cercava di toglierlo. No, non cercava di toglierlo, cercava di asciugarlo. La mamma era bellissima e non come me. E non ditemi che sono bella perché sarebbe una bugia. E non aspettatevi nessun ringraziamento per una bugia. Non oggi, non in questo posto, perché se noi siamo qui è perché io voglio dire la verità. E se posso dire la verità io, allora dovreste avere lo stesso riguardo anche per me. Grazie. Cosa stavo dicendo? La vespa. Sì, eravamo sedute su una di quelle panchine di legno di fronte al lago. In mezzo al lago c'è un'isola enorme. Io riuscivo a vedere cespugli pieni di fiori rossi e alberi con tronchi d'argento. Sopra uno di quegli alberi c'è un essere alato enorme. Allora io dico: guarda mamma, è un mostro. La mamma rise e disse che era un airone. Come avrei voluto vivere su quell'isola e magari cavalcare quell'airone che mi sembrava grande abbastanza da potermi portare con sé. Raccontai il mio piano alla mamma e lei mi disse: non riusciresti a vivere su quell'isola tutta da sola. Aspetta di crescere e di incontrare un uomo. Continua a farlo, vero? Mi distraggo, non dovete permetterlo, siete troppo educati. Lo so che è giusto così, ma vi prego di non esserlo. Rimproveratemi pure se questo serve a rimettermi in carreggiata, non mi offendo. Deve essere stato il gelato ad attirarla. Sì, la vespa. Avevo in mano un cono con un'enorme palla di gelato che si stava sciogliendo fra le mie dita. E io stavo cercando di leccarlo via quando ho sentito un ronzio. Qualcosa che punge dolore e la mamma che mi trascina a casa e mi bagna il collo che brucia. Le vespe pungono solo le persone che amano. Ma perché, mamma? È il loro modo di farti un regalo. Guarda, allunga la mano. Un piccolo diamante. Hai visto quanto ti ama la vespa? Smetto di piangere. Non mi fa più male il collo che brucia. My lover's hands hold me close at night. His warm embrace fills my dark with light. Oh, I'm safe in my lover's hands. Yes, safe in my lover's hand. Me l'ha insegnata la mamma. Mi ha insegnato un sacco di canzoni. Ma non le ho imparate perché mi ha dato delle lezioni, no. È che la mamma cantava. Sempre. Cantava quando si faceva il bagno, mentre si truccava, quando l'aiutava a mettersi lo smalto sulle unghie dei piedi. Ricordo che la sera restavo sveglia, aspettando che tornasse. E la prima cosa che sentivo, la sua voce, a chilometri di distanza. My lover's hands gather lavender, lavender for my hair. Non sono capace a cantare, questo lo so. E non ditemi che so cantare perché sarebbe una bugia. E come vi ho detto prima, non aspettatevi nessun ringraziamento per una bugia. Il suono della mia voce non mi dispiace nella mia testa, ma lo so che per gli altri è una cosa orribile. E sì, una sera la mamma mi ha svegliato e mi ha fatto cantare una canzone davanti ai suoi amici. Mi ha filmato. Quando mi sono rivista ho detto: non è la mia voce quella, vero? E la mamma ha detto: sì, ed è una voce bellissima. altrimenti perché credi che gli zii ti abbiano applaudito e vogliono sentirti ancora? Gli amici della mamma si chiamavano tutti zii, dicevano cose bellissime, ma gli uomini mentono, no? Facevo parte del coro scolastico, sì. Vi prometto che questa è l'ultima che vi racconto sulla mia voce orribile. Era Natale. Dovevo cantare al St. Joseph, dovevo cantare una canzone tutta da sola. No, non ricordo di essere stata ansiosa, è che la mia voce tremava quando c'era qualcosa che mi agitava. Si intitolava Lontano in una mangiatoia, la conoscete? Parla del bambino Gesù che non ha una bella culla. È tristissima. E mentre la cantavo mi sentivo Maria nella stalla. Iniziavo a vedere tutti gli animali della fattoria che si radunavano intorno a me. Sentivo il chiasso che facevano e una puzza orribile, e che avevo viaggiato per chilometri, venivo da Nazareth. Sono iniziate le doglie e non c'è nessuna donna che mi stringa la mano. Il sangue di Maria, ci avete fatto caso? Non lo mostrano mai in nessun quadro della Natività, sono tutti così puliti. Ma il parto non è così. Vi racconto un po' di mia mamma. Vi aiuterebbe? Io credo di sì. E poi sono in vena, perché non approfittarne? Mamma faceva la cantante professionista. Sì, è così che ha conosciuto papà. Doveva cantare ad un festival sulla costa. Beh, cazzo, se lo sapete già, vorrei sapere da chi l'avete saputo, porca puttana. Non ho detto una parola su questo. Lo so, cazzo, di non averlo fatto. Aveva avuto successo da giovane. Il suo nome d'arte era Bridie Queen. Bridie Queen. Ma ve l'ho detto, è stato molto tempo fa. E il suo modo di cantare non è più alla moda, sì. Musica per tagliarsi le vene, qualcuno la definiva così. E in effetti non ha tutti i torti, perché c'è molta tristezza dentro. Ma nella vita c'è molta tristezza, no? Non siete d'accordo anche voi? Io credo di sì. Dove volevo arrivare? Non me lo dite. Il festival di musica dove mamma ha conosciuto papà? Cornovaglia, ecco dov'era. Papà era lì in vacanza con degli amici. C'è una sua foto sulla spiaggia. E la foto è sfocata, ma si intravede quant'era bello. E deve essere un caso che papà fosse lì in vacanza, perché non è un grande appassionato di musica. Non della musica che piaceva alla mamma. Quindi papà era lì per immergersi nell'atmosfera, immergersi nell'alcol più che altro. Ed era lì che si immergeva quando ha visto la mamma sul palco e bam! Mamma mi ha detto: sapeva come funzionava il mio cuore e io sapevo come funzionava il suo. Sono scappati insieme quella notte. L'indomani erano a Londra a cercare un posto dove vivere. L'hanno trovato a Croydon. Ci siete mai stati? Non è poi così male come dicono. Mamma amava talmente tanto papà che ha rinunciato alla sua carriera per lui. Ha rinunciato a tutto. Non è romantico? Io credo di sì. La prima volta che ho visto Tyrone Turner era al McDonald's. Ero con la mia migliore amica Emma. Emma è una classe indietro la mia alla scuola, ma abbiamo la stessa età, 15 anni tutte e due. Emma dice: dai un'occhiata là. Io seguo il suo sguardo e vedo tre ragazzi. Beh, non proprio ragazzi, uomini giovani, sono una frana con l'età. Indossano pantaloni costosi e magliette alla moda. Non sono il mio tipo, dico. Invece lo sono, e come. Sono il genere perfetto per qualsiasi ragazza. Li osservo ordinare degli hamburger. La ragazza che li serve scherza con loro spudoratamente, ma non ha un po' di rispetto per se stessa? Io mi concentro sulla separazione della mela dalla mia torta di mele. Non mi piace la frutta. E non mi piacciono neanche le torte, se è per questo. Mi piace solo la parte al centro, quella morbida. Emma dice: dai un'occhiata alla loro macchina. Guardo fuori e la loro macchina è bellissima, è nuovissima. Uno dei tre si volta e mi sorride. Uno dei suoi denti, questo, è d'oro. Sì, lo so cosa state pensando, è volgare. E sono d'accordo con voi, sulla maggior parte degli uomini lo è. Ma su di lui non lo era. Io e Emma stiamo tornando a casa quando sentiamo una macchina che si avvicina. E indovinate chi è? Quello con il dente d'oro. Dice se vogliamo un passaggio. E io rispondo, no grazie. Anche Emma, ma senza troppa convinzione. Lui dice che due donne giovani e belle non dovrebbero andare in giro da sole a quest'ora della notte. È la prima volta che vengo chiamata donna? Sì, credo di sì. Sicuramente è la prima volta che vengo chiamata bella. Quello con il dente d'oro dice che vorrebbero incontrarci domani, allo stesso posto, alla stessa ora. Vorrebbero tanto conoscersi meglio. E io dico, vediamo cosa succederà. Mettono in macchina e se ne vanno. Viscidi. Emma dice, ma no, dai, andiamo ad incontrarli. Non ci penso proprio. Dai, Andrea, no! Naturalmente l'indomani ci vado e mi accorgo che Emma ha fatto più attenzione al trucco. In realtà anch'io. Quello con il dente d'oro mi fa segno di uscire. Io dico, ma non dovevamo vederci qui dentro? Emma corre subito fuori. A volte la dignità non è proprio il suo forte. Io mi tolgo le briciole dal vestito e lentamente, ma molto lentamente, raggiungo Emma. Quello con il dente d'oro mi bacia la mano. È affascinante, vero? Io credo di sì. Dice che si chiama Tyron e poi ci presenta gli altri. Lamal, Grady e Stivo. Ma il più importante è Stivo perché si è preso una cotta per Emma. Con la macchina arriviamo dove prima c'era il vecchio municipio. Adesso è una discoteca con le luci a laser. Io e Emma diciamo che non possiamo entrare perché siamo troppo piccole, ma Tyron dice che ci lavora un suo amico e non dobbiamo preoccuparci di nulla. Entriamo e ci sediamo ad un tavolo all'angolo. Tyron si siede accanto a me. Il suo dopo barba sa di limoni. Ci dice cosa vogliamo da bere e io e Emma ordiniamo Coca Light. Tyron dice che dovremmo bere qualcosa di un po' più speciale. Ordina cocktail. Io non ho mai bevuto un cocktail e neanche Emma. È buonissimo. Tyron e gli altri ci chiedono cosa facciamo dopo la scuola, che interesse abbiamo, che musica ascoltiamo. E quando rispondiamo, ci ascoltano, anzi, sembrano interessati. Un altro cocktail? Perché no? Tyron mi sta accarezzando la mano. Dice che ho la pelle morbida. Gli chiedo, quanti anni hai? Lui risponde, 23. Beh, è grande, ma non è che ha tipo 30 o 40 anni. Ora Tyron mi sta stringendo la mano. L'odore di limoni si fa più forte. Il suo corpo è imponente, come un albero. Beviamo un altro cocktail? Tyron dice che è ora di andare a casa. Io dico, no, no, dai, ti prego, restiamo. Tyron sorride e dice che non vuole che i nostri genitori si arrabbino con lui e che domani dobbiamo andare a scuola. E io gli dico, io non ce l'ho i genitori. E la signora che sta con me, la signora Vai, non gliene frega niente di quello che faccio. Tyron sorride e dice che resteremo più a lungo la prossima volta. La signora Vai? Sì, dovrei parlarvi un po' di lei. Sono andata a vivere con lei quando avevo 12 anni. È venuta a prendermi a casa mia a Croydon, dove vivevo con la mamma, e mi ha portato a casa sua. Mi ha detto, se non la pianti di frignare ti porto dagli assistenti sociali. Quella troia di tua madre non ti vuole più. Io odiavo la signora Vai. Era talmente ossessionata dai lavori di casa che persino le tazzine dovevano stare sulle mensole in un determinato modo, all'ingiù sul piattino con il manico a destra. E io dovevo aiutarla come una cameriera o qualcosa del genere. E le volpi? Era ossessionata dalle volpi. Sì, diceva che le volpi erano molto pericolose. Sì, le volpi facevano delle buche in giardino e lasciavano uno schifo sul patio e io dovevo spargere un liquido antivolpe. Verde, denso, mi ha fatto venire uno sfogo sulle mani, ma dovevo farlo lo stesso. Era ossessionata dalle volpi. Ha detto che una volta ha visto una foto su un giornale di una volpe che trascina fuori dalla finestra di un asilo la bambola. La signora Vai diceva che la bambola non era neanche tanto piccola. Odiavo la signora Vai. Ho cercato di nasconderlo? No. Ma ci tengo a precisare una cosa. Io non ho E ripeto, non ho una bambolina su cui fare gli spilloni. Le ho sentite tutte quelle cazzate che scrivevano sui giornali. Parlavano di strega, riferendosi a me sin dall'inizio. La strega e il suo soldato. Il soldato maledetto dalla strega nella foresta di Epping. E poi ce n'era un altro, sì. La strega ha sacrificato il suo bambino nella foresta di Epping. Chi l'ha detto? Siete stati voi? Andrea, dici solo che cosa hai fatto al bambino. Beh, qualcuno di voi l'ha detto, perché ho creduto di poter raccontare, di poter parlare liberamente. Siete dei bugiardi. Siete come tutti gli altri. Non ti vergogni di quello che hai fatto al soldato, Andrea? Non ti vergogni di quello che hai fatto al bambino? No, non mi vergogno, cazzo! Il soldato mi amava. Sì, mi amava. E io non ho ucciso il mio bambino. Mi avete sentito? Non ho ucciso il mio bambino, vaffanculo! Vaffanculo a tutti, vaffanculo, vaffanculo! Ricordo la prima volta che Tyrone mi ha baciata. Mi imbarazza un po'. Sto arrossendo, vero? Credo di sì. Eravamo andati a fare un giro in macchina lungo il fiume. Ci siete mai stati? È bellissimo. Le luci, il fiume. È magico, vero? Tyrone mi stava parlando della sua infanzia, di come la mamma l'aveva cresciuto da sola perché il papà se n'era andato che lui aveva solo 5 anni. E io gli ho detto che era una coincidenza, perché anche mio papà se n'era andato che io avevo solo 5 anni. E poi mi sono liberata di tutto, di cose che non avevo detto mai a nessuno, nemmeno ad Emma. Di come mamma mi aveva detto che papà se n'era andato per cercare fortuna. E di come all'inizio io ci ho creduto. E di come poi ho scoperto la verità. Non dalla mamma, naturalmente, ma da uno zio. E la verità è che... Siete pronti? Papà è in galera. Spaccio di droga o qualcosa del genere. Deve aver picchiato un poliziotto quando sono venuti ad arrestarlo, ma non ne sono sicura. Così Tyrone mi ha chiesto se mi dava fastidio che mamma mi avesse mentito. E io gli ho detto che no. Che non mi dava fastidio, perché a volte la vita è così dolorosa che devi mascherare. Devi mascherare, altrimenti diventa tutto troppo, troppo insopportabile. E poi mamma non mi aveva mentito, perché papà è tornato. Che cosa stavo dicendo? Ah, quando finisco di parlare di mio padre mi accorgo che non siamo più lungo il fiume, ma siamo in una stradina isolata. Tyrone allunga una mano sulla mia spalla. Sento le sue labbra sul collo. Il sedile che va indietro e lui è sopra di me, pesante come il cielo. E il mio corpo si apre. Avete presente quella sensazione? Sto parlando a voi donne adesso. Di quando un uomo, l'uomo giusto, vi bacia. E il vostro corpo si apre e lascia spazio. E vuoi che l'uomo giusto, lo riempia. Sì, avete indovinato, c'è stato più di un bacio quella notte. È stato bellissimo. Mi avete sentito? Non sono mai stata così felice. Fantasticavo su come sarebbe stato il giorno in cui papà sarebbe tornato a casa. Io non sapevo nulla di lui, a parte qualcosa per via di quella fotografia sulla spiaggia e qualche racconto della mamma. Così ho pensato che il nostro incontro sarebbe stato come un film. Sì, sarebbe arrivato con il treno. Ci sarebbe stato tanto vapore. E sì, lo so, cazzo, che non ci sono più i treni a vapore, ma è un film. Lui sarebbe arrivato, le porte si sarebbero aperte, io l'avrei aspettato sulla banchina. Gli sarei corsa incontro gridando: è mio papà! È mio papà! È mio papà! Ma quando ci siamo incontrati non è stato affatto così, no. Sono tornata a casa da scuola e l'ho trovato sul tavolo della cucina. Era uguale alla fotografia, se non fosse che indossava un cappotto di pelle ed era più a fuoco. Stava mangiando un panino con la pancetta. Io mi siedo davanti a lui, lui non dice niente. Poi ad un certo punto, con la bocca ancora piena, dice se mi ricordo di lui, e la mamma dice certo che no, fila in camera tua, Andrea. In camera mia? Ma perché? Mi siedo sul bordo del letto. Ho ancora la busta della spesa sulle ginocchia. Sì, spesso nel tragitto da scuola a casa faccio la spesa. Ho comprato 2 torte surgelate. Sento il freddo sulle gambe. L'acqua della vasca che scorre. E poi più tardi il ticchettio dei passi della mamma. La porta che si apre, papà e mamma sono lì, in piedi. Mamma dice, noi usciamo, non ci aspettare sveglia. E io dico, mamma, ma la cena? Ho comprato 2 torte surgelate. Mangiale tu, noi ceniamo fuori. E se ne vanno. Io infilo una delle torte nel microonde e mi siedo sul tavolo della cucina a mangiare. Davanti a me c'è l'avanzo del panino di papà. Sì, c'è del rossetto della mamma sulla mollica. Vado a letto alla solita ora, ma non riesco a dormire. Aspetto che tornino. Quando rientrano, guardo l'orologio. 4:00. Li sento barcollare all'ingresso. Ridere, scherzare. E poi salgono in camera della mamma. Sento i gemiti della mamma. Sì. Sì. Sì. Non sembra proprio la sua voce. Mi sto provando un vestito nuovo, vi piace? Me l'ha regalato Tyron. Mi ha fatto un sacco di vestiti. Mi ha detto che potrei essere una diva del cinema. Mi dice sempre cose bellissime. Ah, c'è una cosa che ancora non ho detto a nessuno, nemmeno ad Emma. Dadan! Anello di fidanzamento. Quanto è bello. Tyron ha detto che non appena sarò abbastanza grande ci sposeremo. E io conto i giorni perché... C'è un'altra cosa che non ho detto a nessuno, nemmeno ad Emma. Ho saltato il ciclo, più di uno. Non è una notizia magnifica. Lo dirò a Tyron solo dopo che saremmo sposati, perché non vorrei che mi sposasse perché si sentisse in dovere. Lo so che è stupido pensare questo, lui mi ama. Ma io vorrei che mi sposasse solo per me. Solo per me, capite cosa voglio dire? Un messaggio di Tyron. Dice che mi aspetta all'angolo. Un'ultima occhiata nello specchio, poi scendo le scale. La signora Vai è sul divano a guardare la televisione. Non mi aspettare sveglia, torno tardi. Esco di casa. Vorrei correre, ma il vestito è troppo stretto. Eccolo là. Ha aperto la portiera. Indossa una camicia di seta nuova. Oh, non vedo l'ora di essere fra le sue braccia. Vorrei strisciare dentro di lui e vivere come una larva. Salgo in macchina. Sul sedile posteriore ci sono Stivo ed Emma. Emma mi sorride, io gli sorrido. Stasera andremo ad una festa super speciale. E questo è quello che hanno detto Tyron e Stivo per tutta la settimana a me ed Emma. E io mi immagino un'enorme pista da ballo con le luci al neon. Invece parcheggiamo davanti ad una palazzina. Bah, la festa non può essere qui. Scambio uno sguardo con Emma, ma non diciamo niente. Tyron dice che è la festa di uno dei suoi migliori amici ed è per questo che è così speciale. Deve aver capito che ci sono rimasta male, perché mormora qualcosa sul fatto che andremo in un locale di lusso la prossima settimana. Sento Stivo che dice lo stesso ad Emma, ed Emma risponde che non fa niente, che tutto è speciale quando sta con Stivo. Avrei dovuto rispondere la stessa cosa anch'io. Ora Tyron penserà che sono un'ingrata. Arriviamo davanti agli ascensori, non funzionano e la festa è all'ultimo piano. Iniziamo a fare le scale. Sto per dire che non credo di farcela con i tacchi che ho messo stasera, quando Tyron mi prende in braccio e dice che l'amore della sua vita non deve camminare. E se avessi avuto anche il più piccolo dubbio, il più piccolo, sulla serata, spariti tutti. Chiudo gli occhi. Tyrone mi dice che non devo guardare dei graffiti volgari sui muri. È così premuroso. Quando arriviamo, vedo Stivo che sta bussando ad una porta. Avrebbe bisogno di una mano di vernice e manca il numero. Ci apre un uomo con la tuta marrone. Ha in mano una lattina di birra. Tyrone mi porta in braccio fino al centro della sala. Non c'è musica. Le luci sono soffuse. C'è la carta di giornali sulle finestre. Ci sono un letto e due divani. Tre uomini su un letto, quattro su un divano e quattro su un altro. Alcuni di loro sono vecchi, ma veramente vecchi, avranno avuto 50-60 anni. Scambio uno sguardo con Emma, ma non diciamo niente. Tyrone mi presenta e dice: questa è la splendida Andrea. E lo stesso fa Stivo con Emma: questa è la splendida Emma. Mi ferisce che Tyrone non mi abbia presentato come la mia splendida. Ecco la musica. Grazie, qualcuno mi passa una lattina di birra. C'è gente che continua a sbucare da tutte le parti. Ma da dove vengono? Iniziano a muoversi tutti al ritmo di musica. Credo che dovrei fare lo stesso anch'io. Tyrone mi strappa la lattina di birra dalle mani. Dice che l'amore della sua vita beve solo champagne. Ed ecco arrivare Stivo con due bicchieri e una bottiglia. Versa da bere per me e per Emma. Faccio un sorso. Non sono una grande esperta di champagne. Tyrone mi bacia. Dice che mi ama. Io mi abbraccio a lui e ci siamo solo io e lui nella stanza. Qualcuno gli passa qualcosa da fumare. Lui fa un tiro e mi bacia. Mi chiede se mi piace. Io dico sì. Lui fa un tiro e mi ribacia. Ora il pavimento è diventato di gelatina. Tyrone dice che dovrei stendermi. Stendermi? Ma perché? C'è una crepa sul soffitto. Sento le lenzuola sotto di me. Tyrone mi sta baciando. Mi sta baciando il collo. Sento tra le mie gambe la mano di Tyrone. La sua lingua apre a forza la mia bocca. Adoro la forza della sua lingua. Come un piccolo animale comincia a succhiarmi la lingua. A volte la succhia talmente forte che potrebbe staccarla alla radice. Le lingue hanno radici? No, gli alberi hanno radici. Sono in un frutteto di limoni. Sento le dita di Tyrone nelle mie mutandine. Le sue dita sono dentro di me. Riconosco il freddo dei suoi anelli. Ma come fa a sfilarmi le mutandine e infilarmi le dita? Dove sono? Sono sempre nel frutteto, vero? Sento strizzare uno dei miei capezzoli. Dov'è il mio vestito, Tyrone? Appendilo ad un ramo. Sono in un frutteto di limoni. Tyrone ora è sopra di me. Stringo le mie gambe intorno a lui. Lo sento dentro di me. Fa dei movimenti tutti per me. Il suo corpo si muove solo per me. Cos'è stato? Ma non è la lingua di Tyrone quella che ho in bocca. È appuntita e sta di noccioline. Tyrone! Tyrone! Non sento più la sua voce. Tyrone, dove sei? Dice che mi ama. Tyrone! Dice di non preoccuparsi. Tyrone! Dice che siamo tutti una grande famiglia qui. Tyrone! Dice che tutta la famiglia mi ama. Tyrone! E io voglio essere amata! Dove sono? La luce è fortissima e io sono sdraiata su qualcosa di freddo. Freddo e duro. Sono in un bagno. Tyrone mi sta lavando le parti intime, è così premuroso. Che ore sono, Ty? 7 del mattino. Dov'è il mio vestito? Grazie. Mi passa delle mutandine nuove. Perché ho bisogno di mutandine nuove? Lui mi aiuta a rialzarmi e mi fa sedere sul bordo della vasca e mi spazzola i capelli. È così premuroso. Sento qualcosa che gocciola fra le mie gambe. Tyrone ha bestemmiato. Non ha mai bestemmiato davanti a me. Mi passa della carta igienica da mettere nelle mutandine. Perché, Ty? Sanguino. Dice di non preoccuparmi. Mi dà un bacio sulla fronte e dice che è ora di tornare a casa. Ci avviciniamo alla macchina, ma non mi apre la portiera. È la prima volta che non mi apre la portiera. Faccio per aprirla e mi dice che non posso salire perché potrei sporcare i sedili. E io dico: sì, certo, ha ragione, è una macchina nuova e potrei macchiare il sedile. Mi chiami dopo, dai. Dice di sì e si allontana. Io non posso vivere senza di lui. Il mio corpo non può vivere senza di lui. Cammino fino a casa. La signora Vai è in cucina quando torno. Salgo in fretta le scale, butto via le mutandine macchiate e la carta igienica, apro l'acqua della vasca. La signora Vai bussa alla porta. Vaffanculo! Io entro nella vasca. L'acqua diventa rosa. Riuscite a vedere mamma e papà che si sbaciucchiano sul divano? Sono passate 3 settimane da quando il papà è tornato a casa e c'è una grande novità, sì. Io sono diventata invisibile. Non ci credete? Guardate. Mamma, papà, buonanotte, io vado a letto. Nessuna risposta. All'inizio non è stato facile, ma poi sono diventata bravissima, sì. La mattina mi sveglio che stanno ancora tutti dormendo e in punta di piedi scivolo in cucina per fare colazione. Quando ho finito pulisco tutto come se stessi cancellando le tracce da una scena del crimine. Poi, sempre in punta di piedi, arrivo in bagno. Quella del bagno ve la devo raccontare. Papà ha buttato il bicchiere con il mio spazzolino. Sì, e ora devo tenere il bicchiere con il mio spazzolino in camera mia, così come il sapone e gli asciugamani. Quando ho finito, esco in corridoio e prendo dei soldi dalla borsa della mamma. Scendo le scale e sono fuori. Beh, quando c'è la scuola è tutto più facile. E quando la scuola non c'è, faccio dei lunghi tragitti con gli autobus e poi mi fermo nel bar sotto casa. Quando rientro, mi chiudo in camera mia e non esco neanche se devo fare la pipì o ho sete. All'inizio non è stato facile. Ma poi mi sono abituata e mi piace abbastanza. Nessuno ti può guardare male o dire qualcosa che ti ferisce se non ti vede. La mia invisibilità sarebbe potuta andare avanti per anni se non fosse che una notte, da-dan, papà mi vede. Sì, sono in camera mia. È una notte calda, non riesco a dormire. Scendo in cucina, sì, per bere un bicchiere d'acqua quando sento un rumore. È papà. Sta uscendo dalla camera da letto. Ha indosso solo i boxer. Il sudore brilla come vernice sui suoi tatuaggi. Ma cos'ha in petto? Rondini. E un coccodrillo sul braccio sinistro. Si siede al tavolo della cucina e mormora qualcosa sul gelato nel freezer. Io prendo la vaschetta e gliela metto davanti. Lui non dice niente. Apro la vaschetta. Lui la fissa. Gli dico: ti prendo un cucchiaino? Lui affonda il cucchiaino nel gelato. Mi piace il modo in cui si riempie la bocca di gelato e non reagisce al freddo. C'è un rotolo di carta sul tavolo e ne stacco un quadrato. E inizio a togliere via il sudore dal collo. No, non lo tolgo. Lo asciugo. Lo asciugo. Ora papà mi sta guardando. Le sue labbra sono bianche. Io asciugo. Asciugo. I suoi sguardi si fanno sempre più lunghi. Io asciugo. Asciugo. Ah! Un colpo in testa! È la mamma! È nuda e fuori di sé! Corro in camera mia e sbatto la porta! Devo essermi addormentata perché è l'ultima cosa che mi ricordo. Quando mi sveglio è mattina e c'è silenzio in casa. Scendo in cucina, c'è un biglietto della mamma. Sì, riconosco la sua calligrafia. Resta qui. Qualcuno verrà per te. Corro in camera sua e apro l'armadio. Vuoto. I suoi vestiti spariti. resto immobile. Poi apro una busta di patatine e mi metto davanti alla televisione. È la prima volta da mesi che non mi siedo su questo divano. Avevo dimenticato quanto fosse morbido. Dormo qui quella notte e quella dopo ancora. Alla fine è bello stare da soli a casa. Nessuno ti può dire quello che devi fare. Non mi cambio, non mi lavo neanche i denti. C'è un'unica cosa che mi preoccupa. Il cibo sta finendo. Avrei dei soldi per comprare un kebab, ma se esco per comprare qualcosa, la persona che dovrebbe venire per me potrebbe arrivare e non trovarmi e non tornare più. Allora aspetto. La mattina del quinto giorno sento aprire la porta d'ingresso. È una donna sulla cinquantina. Indossa un cappotto con dei bottoni d'ottone. Apre la finestra e mi vede. Dice: devi essere tu. Io non so cosa rispondere. Hai dei vestiti puliti? Sì, credo di sì. Allora prepara un sacchetto con le tue cose, una busta di plastica, non portare troppe cose e nessuna foto della cantante Troia. Sì, sto parlando di tua madre, se quello si poteva definire cantare, musica per tagliarsi le vene piuttosto. Cazzo, bambina, tu non sai chi sono io? No, sono la madre di tuo padre, non devi chiamarmi nonna, chiamami signora Vai. Ha appena telefonato Doreen, sì, perché stiamo andando a quel nuovo centro commerciale, quello vicino all'autostrada, come si chiama? Sono una frana con i nomi. Emma mi ha detto, come se non lo sapessi, che stasera c'è una festa super speciale e Tyrone e Steve vogliono che anche noi siamo vestite in maniera super speciale. E allora io dico, sì, certo che ci vengo. Quando arriviamo passeggiamo un po' con Doreen, la cugina di Emma, che sta aspettando un bambino. Lei vuole vedere solo vestiti per bambini, così ci diamo appuntamento dopo 2 ore al Regno del Gelato. Io ed Emma corriamo dalla Signora degli Anelli, sì, che ha vestiti di classe con prezzi abbordabili. Quando abbiamo finito le nostre compere, torniamo da Doreen al Regno del Gelato. Lei a metà del suo banana split. Io e Emma ordiniamo Coca Light. Doreen non fa altro che lamentarsi sul prezzo dei passeggini. Io e Emma ci guardiamo intorno. I miei occhi vedono e non vedono e si posano su una famiglia all'angolo, vicino alla finestra. È Tyrone. Indossa una giacca che non ho mai visto. C'è una donna accanto a lui che gli stringe la mano. Ci sono 3 bambini, il più piccolo è un neonato. Resto immobile. Emma se ne accorge, segue il mio sguardo e dice: oh cazzo. Dice: dai Andrea, andiamo. No, io rimango qui. Andrea, non fare idiozie, andiamo, vai. Osservo Tyrone. Cosa sta mangiando? Una coppetta al cioccolato. Sacchi, sacchetti tutti intorno. Ora si stanno alzando e si allontanano. La donna che sta con lui infila una mano nella tasca posteriore di Tyrone. Corro da loro e le mordo il polso. No, non lo faccio. Continuo a camminare. Ora stanno passando davanti alla Signora degli Anelli. Corro da loro e le spacco la testa contro la vetrina. No, non lo faccio. Continuiamo a camminare, li seguo a distanza. Ora il bambino inciampa, cade. I genitori lo aiutano a sollevarsi ed è lì che Tyrone mi vede. Cosa? Irritazione? Stupore? Esita un po' e poi continua come se niente fosse. Corro da loro e gli grido: chi è la puttana che sta con te? No, non lo faccio. Continuiamo a camminare, ora siamo davanti agli ascensori. Siamo vicinissimi. Sua figlia, la più grande, non smette di mandare sms. Avrà la mia età, è alta come me. Sto guardando Tyrone. Sta parlando con la donna. Sta parlando con sua moglie, sì. Riesco a vedere gli anelli. Sta parlando con sua moglie, fisso il bambino. Adesso gli cavo gli occhi. No, non lo faccio. Continuiamo a camminare. Ora siamo nel parcheggio del centro commerciale. Tyrone esita un po'. La donna, la Troia, gli chiede che cos'ha. Lui dice niente. Le apre lo sportello, bastardo. fa sedere i bambini sul sedile posteriore e mette i sacchetti nel bagagliaio e sale in macchina. Adesso corro da loro e mi sdraio davanti alla macchina. No, non lo faccio, aspetto che mettano in moto e che se ne vadano. E urlo! Urlo come non ho mai urlato prima. E si formano delle crepe nel cemento, le lampadine esplodono e tutto il centro commerciale si sgretola attorno a me. Sto camminando. Dove sono? Dove sono i miei sacchetti? Perduti, devo averli lasciati nel parcheggio del centro commerciale, ma non c'è una cazzo di fermata dell'autobus qui. Comincio a camminare sulla corsia d'emergenza, squilla il telefono e Tyrone, non rispondere. Squilla di nuovo e Tyrone, non rispondere, un messaggio, parlami. Quando richiama rispondo. Sei un bugiardo, pezzo di merda falso, sei sposato, hai dei bambini, quanti anni hai? Non mi dire che hai 23 anni, eh? Mi fidavo di te. Ho lasciato che mi scopassi. Ho lasciato che mi venissi in bocca. Ho lasciato che i tuoi amici mi scopassero e mi venissero in bocca tanti, centinaia. E tutto questo l'ho fatto per te. Perché io mi fidavo. Hai detto che volevi sposarmi, che volevi dei bambini. Sei un bastardo, pezzo di merda, muori! Lancio l'anello il più lontano possibile e continuo a correre. Squilla il telefono, un messaggio di Tyrone. Ricordati della festa di stasera, bastardo! Squilla il telefono, Emma. Dice che lo devo lasciar parlare, che mi può spiegare tutto e che stasera c'è una festa super speciale e Tyrone e Steve hanno promesso a delle persone che noi ci saremo. Vaffanculo pure a te! Sbatto il telefono a terra e continuo a correre. Arrivo a casa. La signora Vai è in salotto. Voglio stare sola! Non mi rivolgere la parola. Vado in camera mia e sbatto la porta. Cosa? Un rumore. Devo essermi addormentata. Che ore sono? È mattina. Sento la porta della signora Vai che si apre. Chiama Andrea. Sembra spaventata. Vado in corridoio. Dice: hai sentito quel rumore? Sì, credo sia una finestra rotta. Possono essere state le volpi? Le volpi potrebbero entrare da una finestra aperta, ma non credo che ne possano rompere una per entrare. Faccio per scendere. Lei dice: attenta, potrebbero essere dei ladri. No, lo so cos'è. È un avvertimento di Tyrone. Arrivo di sotto e la finestra è rotta. Vetri sparsi ovunque, vicino alla moquette, sul divano. All'inizio non riesco a capire che cosa hanno buttato. Poi lo vedo. Un barattolo, rotto in quattro parti. E il contenuto è sparso ovunque. Centinaia di preservativi usati su tutta la moquette, il divano appiccicati ai muri. La signora Vai ha dei conati di vomito, corre in bagno. In quel cocktail di sperma deve esserci il sapore di Tyrone. Vorrei succhiarne uno ad uno finché non scopra qual è. Devo essere lucida. La signora Vai mi dice se so chi l'ho fatto. E io dico sì, mi dispiace, pagherò io per la finestra. Non voglio che paghi per la finestra, stupida. Voglio solo che ti metti al riparo. Mi chiede se l'aiuto a sistemare. Dico sì, prendo un sacchetto di plastica, infilo dei guanti. E inizio a staccare i preservativi dal muro. Mi sembra di cogliere frutta matura. La signora Vai sta pulendo le pareti con una spugnetta. Piange. Mi fa tenerezza. Strano, eh? Magari dopo che abbiamo pulito le offro una tazza di tè. I cuscini sono rovinati. La signora Vai è sconvolta, sembra passata dentro un uragano. Io vado a prendere un deodorante per ambienti quando sento un tonfo. È la signora Vai? Sì, è stesa accanto al divano. Fa degli strani versi con la gola, come il canto di un delfino. E la sua faccia? Il lato sinistro sembra sciogliersi. E i suoi occhi sono semiaperti, fissano la moquette. Io le spruzzo addosso il deodorante per ambienti, come una rugiada, la ricopro, colline di primavera. Continuo a fare quei versi. Sta fissando la moquette. ma forse fissa qualcosa un po' più in là. L'inferno, forse. I rumori degli ospedali sono bellissimi, non trovate? Tutte quelle voci sussurrate, il suono dei macchinari. C'è qualcosa di rassicurante, sì. Se l'avessi saputo prima sarei venuta qui più spesso. Mi hanno offerto 3 tazze di tè da quando sono qui. Una quando ero al pronto soccorso con la signora Vai. E 2 da quando siamo qui. È un reparto speciale. Hanno portato la signora Vai a fare una TAC e mi hanno chiesto se volevo andare con lei. Ho risposto no. Ed è qui che mi hanno offerto la 3ª tazza di tè. Me l'ha offerta un infermiere calvo con le guance rosse. Mi fissava le tette. Io chiudo la tenda verde intorno al mio letto e mi sembra di essere in un prato con l'erba alta. Shh. Stanno portando qualcuno nel letto accanto. Sì, sento le voci. Sento le voci dell'infermiere, quello che mi fissava le tette. E del dottore, è lui che mi ha detto che la signora Vai ha avuto un grosso ictus e che devo aspettarmi il peggio. Ma c'è una voce nuova. Una voce di donna. Shh. Parla del figlio. Deve essere lui quello malato. Un'infezione. Cosa? L'infermiere e il dottore chiamano la donna René. Deve essere di casa qui. La 5ª infezione in 5 mesi. Totalmente dipendente dalla madre. Shh. Cazzo, parlate più forte. Ora parlano di una fidanzata. No, ex fidanzata. Parlano di un viaggio in Cornovaglia per fare surf. Forse è lì che si è ferito. Stanno dicendo qualcosa sul fatto che René deve occuparsi del suo figlio tutta da sola perché il papà... Cazzo, non sento! È un'infermiera. Mi dice che la signora Vai è stata portata in geriatria. Grazie. Silenzio. Se ne sono andati tutti. C'è solo un rumore che proviene dal letto accanto, come un respiro. Fisso la tenda verde che mi separa dal respiro. Mi avvicino, sposto la tenda e guardo nel letto accanto. Ma credevo di trovare un ragazzino con tutto quel parlare di surf, fidanzate. Invece è vecchio, molto più vecchio. Deve avere 25 anni o qualcosa del genere. La gamba destra non c'è. Il braccio sinistro è amputato sopra il gomito. La mano destra manca del pollice e di 2 dita. E la pelle del braccio è tutta bruciacchiata come la pelle di un serpente. Cos'ha sulla testa? È una ferita? No, è un buco, come se qualcuno ne avesse presa una cucchiaiata. I suoi occhi sono aperti ma non vedono veramente. Come si chiama? È stato vegetativo, sì. Afferro le 2 dita rimaste. Sento il sangue scorrere. Ed è lì che capisco. Capisco con una certezza che non ho mai avuto prima. Quest'uomo è fatto per essere mio e io sono fatta per essere sua. Afferro la sua cartella clinica. Glenn Shelby, 26 anni. Minanti uomo. Soldato, soldato. Ho dovuto lasciare Glenn. Le infermiere non avrebbero capito perché gli stessi stringendo la mano. Non avrebbero capito i miei sentimenti per lui. E io ho bisogno di tempo per pensare, sì. Devo organizzare. Io e Glenn dobbiamo stare insieme. È buio. È passata la mezzanotte. Dovrò prendere un notturno per tornare a casa della signora. Come si chiama? Forse non l'ho mai saputo. Io non so nulla di lei, alla fine era solo la mia padrona di casa. Non le ho mai comprato un biglietto di auguri per il compleanno né un regalo per Natale. L'unica cosa che so è che una volta indossava un cappotto con dei bottoni d'ottone e che non gli piace l'odore di sperma. Sono alla mia fermata, ci sono un uomo e una donna che aspettano. Che faccio, gli sorrido? No, fisso la strada, nessun segno dell'autobus. Comincio ad aver paura e non so perché. Qualcosa vuole farmi del male. Qualcuno. Vorrei che ci fosse un posto in cui nascondermi. Sono questi i momenti in cui vorrei avere un velo. Il mio autobus, lo prendo. Che faccio, sorrido all'autista? No, meglio di no, mi siedo dietro. Sono l'unico passeggero. Il conducente mi sta guardando dallo specchietto. Mi vuole violentare? Beh, è probabile. Salgono due uomini all'altra fermata. Hanno bevuto sicuramente, scherzano e ridono tra di loro e si siedono più avanti. Uno di loro si volta a guardarmi e poi parla con l'amico. Mi vogliono violentare? È probabile. Si metteranno d'accordo con l'autista e faranno uno stupro di gruppo, l'autobus dello stupro di gruppo. Alla prossima fermata saliranno altri uomini. L'autobus sarà pieno di uomini. Succede sempre così, lo fanno tutte le sere. Scendo alla mia fermata, sono sulla strada principale, dovrei essere al sicuro, ma non lo sono. Non ci sono donne in giro, sono tutte sbarrate nelle loro case con le porte chiuse, perché è lì che devono stare. Sono io la pazza ad andare in giro a quest'ora della notte? Me lo merito quello che mi succede. Se qualcuno mi sfregiasse la faccia con l'acido, dovrei prendermela solo con me stessa. Shh. Vorrei correre, ma se inizio a correre mi seguiranno. Vorrei urlare, ma le grida di una donna al giorno d'oggi sono normali. La gente si domanda che cosa c'è solo se non è una donna che grida. Ora sto correndo verso casa. Cos'è? Un rumore? Chiavi di casa? Cos'è stato? Chiavi nella serratura? C'è un respiro dietro la porta? Entro in casa, qualcuno potrebbe fermarmi la porta con un piede? Sbatto la porta, sono in casa e dovrei essere al sicuro, ma non lo sono. Non mi sento al sicuro. Perché? Che cosa ho fatto? Che cosa avete da guardare? Io sono qui per un motivo. Glenn! Sì, devo prepararmi per la prossima visita in ospedale. Corro in camera della padrona di casa. Mi siedo alla sua toilette. Non credo che a Glenn piaccia questo taglio di capelli. Non ha detto niente, eh? Lui è educato. Credo che voglia qualcosa di un po' più semplice. Li potrei raccogliere così. Ho bisogno di un vestito. Apro l'armadio della padrona di casa. Tutti i vestiti sono larghi. Ne prendo uno. Beh, che ne pensate? È largo. È senza forme, ma mi piace. Mi fa sembrare più grande, più matura. È così che deve essere. Questo è il look perfetto della futura signora Shelby. Salve, sa dirmi dove posso trovare Glenn Shelby? Sono alla reception dell'ospedale, un'infermiera sta cercando Glenn sul computer. Ha una targhetta con il suo nome, Amber. È un bel nome, non trovate? Se avessi una figlia la chiamerei così, Amber Shelby, suona bene, vero? Percorro il corridoio e c'è un'infermiera che mi sta tenendo la porta. Scusi, sa dirmi dove posso trovare Glenn Shelby? Seconda porta a sinistra, grazie mille. Arrivo vicino alla porta. C'è una donna davanti alla stanza di Glenn. Deve essere René, sua madre. Me la immaginavo diversa. Sì, i capelli sono più grigi e spettinati, ma non ha un pettine, cazzo. Salve, sono qui per vedere Glenn. Lei mi guarda. Chi sei, tesoro? Sono Andrea. Ci siamo conosciuti l'anno scorso in Cornovaglia per fare surf. Ho saputo da poco che era stato ferito. Ferito? Beh, se si può dire così. Chi ti ha detto che era qui? Lui! Lui? Sì! Glenn mi è apparso in sogno stanotte. Mi ha detto solo il nome dell'ospedale. Io sapevo che aveva bisogno di me. Posso vederlo? René mi guarda. Dovrei stringerle la mano? No, ancora no, aspetto. René mi fa entrare in camera di Glenn. Mi sta osservando. È stupita del fatto che non provo orrore per Glenn. Glenn! Perché non me l'avete detto subito? E gli bacio la guancia. René dice: tesoro, non può parlarti. Le infermiere hanno detto che non c'è più nulla di Glenn lì dentro. Sciocchezze! Io lo so che è lì. Posso cantare per lui? È così che ci siamo conosciuti in Cornovaglia. Sì, io stavo cantando ad un festival di musica folk. Oh no, no, no, non è musica alla moda. Musica per tagliarsi le vene. Qualcuno la definiva così. Io ero lì che cantavo quando ho visto Glenn tra la folla e bam! Sapevo come funzionava il mio cuore e lui sapeva come funzionava il mio. My lover's hands hold me close at night, close at night, close at night. His warm embrace fills my dark with light. Oh, I'm safe in my lover's hands. Yes, safe in my lover's hands. La canzone ha fatto piangere René, lo sapevo. Ora siamo nella mensa dell'ospedale. C'è un grande chiasso qui e c'è una macchia di ketchup sul tavolino. René sta mangiando dei biscotti. Sì, lo so, René, cosa stai pensando. Se io e Glenn eravamo così amici, perché abbiamo smesso di vederci? René fa sì con la testa. È stata una scelta di Glenn, aveva una fidanzata, vero? Bella fidanzata che si è rivelata. L'abbiamo vista solo una volta dopo l'incidente. Ha detto: non passerò la mia vita sposata con un vegetale. Ha detto così. Beh, non proprio queste parole, ma era quello che avrebbe voluto dire. Beh, si sbagliava, perché Glenn è più Glenn di quanto non lo sia mai stato. E questo noi lo sappiamo, vero? René fa sì con la testa. La macchia di ketchup si sta ingrandendo, ne sento persino l'odore. Ma non c'è nessuno che pulisce i tavoli in questo cazzo di bar. René mi dice: Glenn ti ha detto di suo padre. Pulisciti la bocca, cazzo! Sì, è morto, vero? Cancro la prostata. Dovrei stringere la mano? No, ancora no, aspetto. E io da quel momento non ho più avuto del tempo per me, non sono mai stata neanche più dal parrucchiere. Ora le stringo la mano, valeva la pena sopportare il ketchup, perché adesso René me la stringe. René, penserò io a Glenn. Prenditi la giornata libera. René mi bacia la guancia. Sono in macchina con René, sì, si è offerta di cucinare per me la cena, per ringraziarmi per essere stata tutto il giorno con Glenn. Arriviamo a casa, ci sono degli scatoloni all'ingresso. René dice: roba medica. C'è odore di antisettico e di urina. È l'urina di Glenn, non mi dà fastidio. Ci accomodiamo in salotto. René va a cucinare delle pizze, io sto lì, mi guardo intorno e vedo una foto di Glenn, sì. Guarda, è stata fatta l'anno scorso in Cornovaglia. Ha in mano una tavola da surf. Ma deve essere stata fatta quando stavamo insieme. Ma sì, certo, sono io quella lì vicino al camioncino dei gelati, non vedete? Dovrei dirlo a René. No, meglio di no. È strano vedere Glenn con tutte e due le gambe e tutte e due le braccia. È pronta la cena, mangiamo in cucina. La tovaglia di carta. E poi non ha la Coca-Cola Light. Ma che cazzo beve la gente? Non mi piace il modo in cui mangia. I suoi denti potrebbero uccidere un furetto. Quando abbiamo finito, finalmente, mi offro di mettere a posto la cucina. E indovinate un po'? Le cose sulle mensole sono messe tutte nel modo sbagliato, ma non sa un cazzo questa delle faccende domestiche. Rimetto tutte le tazzine all'ingiù, sul piattino con il manico a destra. Quando ho finito, René mi dice: vuoi vedere la stanza di Glenn? Sì, dico. L'odore di urina si fa più forte. Glenn. Quando entro c'è una mensola vicino alla libreria con tutte le sue foto. E ce n'è una con cespugli pieni di fiori rossi e alberi con tronchi d'argento. E sopra uno di quegli alberi c'è... è un airone, dico. René ride. Dice: no, è Glenn. Suo padre ha scattato la fotografia. È stata fatta l'anno scorso. Siete su un'isola? No. Ride di nuovo. Dice: siamo nella foresta di Epping. Sì, è proprio qui, a pochi isolati. Rimetto a posto la fotografia. Si è fatto tardi. René mi dice se voglio rimanere a dormire. Io dico sì, grazie. E mi fa accomodare nella stanza di Stephanie, il fratello di Glenn. C'è odore di profumo scadente. E c'è una coperta rossa sul letto che sembra la lingua di una balena. Sono in ambulanza con Glenn. Sono andata a prenderlo in ospedale, l'hanno dimesso. Sono andata io, René mi ha detto che ormai faccio parte della famiglia. Guarda, Glenn, siamo quasi a casa. Sono passati 3 mesi da quando Glenn è tornato a casa e c'è una grande notizia, sì? Sono incinta del figlio di Glenn. Cresce velocissimamente, scalcia come un animale. Glenn deve avere del super sperma o qualcosa del genere. Sicuramente è un maschio. Glenn non mi metterebbe mai incinta di una femmina. Le femmine sono inutili, no? Se sapessi di aspettare una femmina, me ne libererei. Basterebbe un ferro da calza e della varichina. Abbiamo deciso di non dire niente finché la mamma non sarà pronta per la notizia. Siamo indecisi sul nome. A me piacerebbe Glenn Junior, ma non credo che a Glenn piaccia. Lui non ha detto niente, eh? È educato. Però è il dovere di un uomo, sì. Le donne suggeriscono e gli uomini decidono. Può la vita essere più perfetta di così? Ah, sono così felice di essere sposata. Ma come? come ho fatto a dimenticarmi di dirvelo? Sì, siamo sposati. No, non abbiamo fatto una cerimonia o qualcosa del genere. Ci siamo solo guardati negli occhi e sapevamo entrambi che eravamo sposati per sempre. Non abbiamo detto niente, eh? Aspettiamo che la mamma di Glenn sia pronta per la notizia. Può la vita essere più perfetta di così? C'è solo una cosa che mi disturba. Sì, Stephanie, la sorella di Glenn, è tornata dall'Australia per un mese. Ha le tette finte e i suoi denti sono troppo bianchi. Io non so come faccia la sua famiglia a sopportarla. Se fossi un maschio della sua famiglia, la cospargerei di benzina e gli darei fuoco. Quando è arrivata mi sono offerta di dargli la sua stanza. Ho detto: dormo sul divano, non ti preoccupare. E lei: no grazie, ho prenotato un albergo. Certo, cateteri e sacchi di colostomia non sono esattamente il tuo genere, vero? Io amo tanto mio fratello. Ipocrita, non vedevo l'ora che se ne tornasse al suo quattro stelle del cazzo. Sicuramente è venuta qui per mettermi contro René, ne sono certa. Una volta ha fatto delle battute sui miei vestiti, si è avvicinata alla mia pancia, ha detto: cosa nascondi lì dentro, una bomba? Crede di essere divertente, ma non lo è. René e Stephanie sono andati a quel nuovo centro commerciale, quello vicino all'autostrada, come si chiama? Non mi ricordo di niente. E io sono sola con Glenn. Sento Glenn che mi vuole. Glenn, sto arrivando. Sta facendo il pisolino, lo fa sempre, prima di pranzo. Eccolo qua. Vedete? Vedete il modo in cui ha iniziato a contrarsi? È un segno di eccitazione. Mi piace eccitarlo. È il dovere di una donna, no? Le donne eccitano e gli uomini si fanno eccitare. Mi tolgo il vestito e faccio passare le mani di Glenn sulla pancia. Guarda, Glenn, il nostro bambino. Mi piace il modo in cui si lascia muovere. Mi tolgo le mutande e il reggiseno e mi infilo nel letto accanto a lui. Sollevo la sua maglietta e accarezzo la sua pancia. È morbida. Prima era tosta e muscolosa, ora tutto il suo corpo è morbido. Ora afferro quello che resta del suo cazzo. Mi piace strizzarlo, mi piace baciarlo mentre lo strizzo. Infilo il braccio di Glenn tra le mie gambe, infilo le due dita rimaste dentro di me. Ha sempre più convulsioni. A volte può farmi venire un orgasmo solo dalle convulsioni. Si preoccupa del mio piacere. Non molti uomini lo fanno. Sì, Glenn, dai, ancora. Continua, continua. Sì. Cos'è? Un rumore. C'è qualcuno fuori dalla porta. Chi è? È Stephanie. Che ci fai di rientro a quest'ora? E come ti permetti di vedermi nuda? Solo a Glenn è permesso. E perché mi stai filmando? Ma René, cosa sta succedendo? Non me lo dire! Ti ha fatto tornare per spiarmi! Volevi mettermi contro René, vero puttana? Non ti avvicinare a Glenn! Solo io lo posso calmare. È il dovere di una moglie. Sì, hai capito benissimo. Siamo sposati. Ah, ti è caduto il silicone dalle tette, vero schifosa puttana del cazzo? Non mi toccare! Non mi toccare. Sì, guarda. Guarda bene, sono incinta del figlio di Glenn. Cosa vuol dire che nulla ha a che fare con Glenn? È tutto a che fare con Glenn, lurida puttana! René, cazzo, fai qualcosa! Glenn, scusami questo linguaggio del cazzo, ma tua sorella mi sta facendo uscire fuori di testa. Cosa? Perché? Dove sono le mie cose? Un sacchetto. Ma perché io non me ne vado da nessuna parte? La polizia, per dire cosa? Che stavo facendo l'amore con mio marito nella mia stessa casa, ma il mondo si è rivoltato. Cosa? Ma vattene tu, affanculo! Dove sei stata tutto questo tempo in cui tuo fratello aveva bisogno di te, eh? Su una spiaggia, a fare pompini a tutti gli aborigeni che incontravi, non mi mettere le mani addosso! Sono una donna incinta! Sono incinta del figlio di Glenn! Io non me ne vado da nessuna parte, hai capito? Vattene tu, affanculo! Questa è casa mia! Casa della mia famiglia! Che cosa fate? La porta sbattuta in faccia! Stronza! Stronza! Stronza! Sto camminando. Dov'è il mio sacchetto? Perduto! L'ho lasciato nel parcheggio del centro commerciale, come si chiama, non me lo ricordo. Buio, pioggia, tengo la testa bassa. E nei momenti così che vorrei avere un velo, se un uomo mi guardasse gli caverei gli occhi. Una volta mi appunto una vespa. Le urla di una donna al giorno d'oggi sono normali. Cosa avete da guardare? Solo mio marito mi può guardare. Pioggia, questo è quello che mi merito per aver messo le tazzine nel verso sbagliato. Se un uomo mi tocca, gli strappo la mano a morsi. Tiro via la pioggia dal collo. No, non tiro. Asciugo. Asciugo. Sono i momenti come questi in cui vorrei avere un velo. Il gelato gocciola fra le mie dita. Ti prendo un cucchiaio. La mamma diceva che erano diamanti, no? Vetri rotti dappertutto. Cos'hai da guardare? Solo mio marito mi può guardare. Vorrei strisciare dentro di lui e vivere come una larva. Se un uomo mi tocca, gli strappo la mano a morsi. Rami, rami. Sto camminando su dei rami adesso. Rami e foglie e cespugli pieni di fiori rossi e alberi con tronchi d'argento. Dove sono? Sono in un frutteto, sì. Gli alberi hanno radici. Le lingue hanno radici. Alberi, alberi. Sono nella foresta. Nella foresta di Epping. Qualcuno si arrampicava su dei rami quando era bambino. Io lo so. Ho visto una fotografia. Il mio bambino. Il mio bambino vuole nascere. Mi poggio contro un albero. Sembra solido come un uomo. Ho percorso chilometri, sono stanca e non c'è nessuna donna che mi stringa la mano. Il mio bambino. Spingi, spingi, spingi, spingi, spingi. Il mio bambino. Shh, il mio bellissimo bambino. Shh, non ti preoccupare, la mamma è qui, ti protegge. Tu sai come far funzionare il mio cuore e io il mio. Nessuna culla qui. Culla di foglie morbide. Shh. Staremo qui. Dormi. Dormiremo tutti. Dov'è il mio bambino? Dov'è il mio bambino? Era qui su questa culla di foglie. Adesso non c'è più. Devo trovare il mio bambino. Devo trovare il mio bambino. Devo trovare il mio bambino. Dov'è il mio bambino? Un rumore. Ci sono le volpi qui. Sì, ci sono le volpi. Le volpi. Ci sono le volpi qui. Ah! Lo so cos'è. È mio figlio. È diventato un uomo mentre io dormivo. Le volpi non l'hanno preso alla fine. Non è stato fatto a pezzi. Non è stato mangiato. No, lui è vivo. Ed è venuto a dirmi che mi ama. È venuto per proteggermi. Mamma ti aspetta. Mamma ti aspetta. Cos'è? Airone. Ma certo, certo, io non sono nella foresta, no. Io sono su un'isola, sull'isola dove ho sempre voluto vivere. Posso cavalcare sulla tua schiena, Airone, dopo? Posso? Grazie. Tutti gli animali della foresta si stanno radunando per vedere il mio bambino. Sta arrivando. Eccolo lì, il mio bellissimo bambino. È così alto, forte, il petto è coperto di tatuaggi, i denti sono d'oro, il braccio coperto da cicatrici di battaglie vinte, le vespe gli ronzano intorno ma non osano pungerlo, no, lui è il loro signore, è il signore di tutto, tutti gli animali gli rendono omaggio, io gli rendo omaggio.